ces suppositions alternatives que j'avais faites en une seconde à son sujet avaient épaissi autour d'elle l'atmosphère trouble où elle se dérobait, comme une déesse dans la nuit que fait trembler la foudre. Car l'incertitude morale est une cause plus grande de difficulté à une exacte perception visuelle que ne serait un défaut matériel de l'œil. En ces trop maigres jeunes personnes qui frappaient ainsi aussi trop l'attention, l'excès de ce que l'autre eût peut-être appelé des charmes était justement ce qui était pour me déplaire, mais avait tout de même eu pour résultat de m'empêcher même d'apercevoir rien, à plus forte raison de ne rien rappeler des autres petites crémières que le nez arqué de celle-ci, son regard, chose si peu agréable, pensif, personnel, ayant l'air de juger, avait plongé dans la nuit à la façon de l'éclair blond qui en ténèbre le paysage environnant. Et ainsi, de ma visite pour commander un fromage chez le crémier, je ne m'étais rappelé, si on peut dire se rappeler à propos d'un visage si mal regardé qu'on a date 10 fois au néant du visage mais différent, je ne m'étais rappelé que la petite qui m'avait déplu. Cela suffit à faire commencer un amour. Pourtant, j'eusse oublié l'extravagance blonde et n'aurais jamais souhaité de la revoir si Françoise ne m'avait dit que, quoique bien gamine, cette petite était délurée et allait quitter sa patronne parce que, trop coquette, elle devait de l'argent dans le quartier. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur, inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Il titolo di questo capitoletto, che è il sesto di Spallor, è il naso della battaglia. Capitoletto fondamentale, il naso della battaglia. Translation. Così dissi a Françoise che per una commissione che dovevo far fare non mi potesse mandare, se ne arrivava qualcuna, quella o quell'altra di quelle ragazzine che vengono senza tregua a chiedere e a portare indietro biancheria e il pane e brocche di latte e dalle quali spesso lei si faceva fare delle commissioni. Io in questo ero simile a Elstir, che obbligato a restare chiuso nel suo atelier certi giorni di primavera, in cui sapere che i boschi erano pieni di violette, mi dava. Sì. Se andava a vedere a dove, mi dava una fregola. Sapete cosa vuol dire avere una fregola? È un po' ma sai cos'è una fregola? Io ho una fregola di fare qualcosa, una specie di voglia, uno sfizio sfrenato, no? Ecco, non so, le donne incinte, per esempio, hanno la fregola di avere, di mangiare delle cose insolite. Che, no, un cesto di fragole in pieno inverno, una volta siamo queste cose qui. Però la fregola è un po' brutta, dai, lo trovate poi, concetto di altri. Di guardarle, quindi lui se ne stava chiuso nel suo atelier, ma gli dava la voglia di vedere queste violette. E allora mandava la sua proprietaria a comprargliene un mazzetto. E allora non è la tavola sulla quale aveva posato il piccolo modello vegetale, ma tutto il tappeto di sottobosco dove aveva visto un tempo a migliaia gli steli serpentini che si inchinavano sotto il loro becco blu, che Elstir credeva di vedere sotto i suoi occhi come una zona immaginaria che era chiusa nel suo atelier, che chiudeva nel suo atelier, il limpido odore del fiore evocatrice, evocatore, il limpido odore del fiore evocatore. Di lavandaie di domenica non si poteva pensare che ne venisse. Quanto alla portatrice di pane, per fortuna, per una mala coincidenza, aveva suonato mentre Françoise non era lì e aveva lasciato i filoncini di pane nel cesto, sul pianerottolo, e se n'era andata. Una volta era andata a ordinare, un formaggio dalla Thai. E in mezzo a quelle piccole commedie, se ne avevo notata una, vera stravaganza bionda, alta, sebbene puerile l'aspetto, puerile nel viso, col viso infantile, alta, ma col, ma così è, alta, alta, così si traduce, alta, ma col viso, diciamo così, alta, ma col viso di bambina, col viso di bambina, e che in mezzo alle altre commesse sembrava sognare in un'attitudine abbastanza fiera. Io non l'avevo vista che di lontano, è passato così in fretta che non avrei potuto dire come era, se non che era, aveva dovuto crescere troppo in fretta e che la testa portava una capigliatura che dava l'impressione, assai meno delle particolarità dei capelli, quanto di una stilizzazione sculturale dei meandri isolati di nevai paralleli. E tutto quello che avevo distinto, insieme a un naso marcato, molto marcato, cosa rara in un bambino, in un ragazzino, cosa rara in un ragazzino, in un viso magro e che ricordava il becco dei piccoli degli avvoltoi. D'altronde, il gruppo intorno a lei delle sue compagne non era stato l'unica cosa a impedirmi di vederla bene, ma anche l'incertezza dei sentimenti che io potevo a prima vista essere qui, ispirarle, fossero di cupa fierezza, oppure di ironia, oppure un disdegno attestato più tardi alle sue amiche. Queste supposizioni alternative che avevo fatto in un secondo a suo riguardo avevano inspessito intorno a lei l'atmosfera torbida in cui si muoveva, come una dea sulle nuvole che fa tremare il fulmine. Infatti, l'incertezza morale è una causa più grande di difficoltà nell'esatta percezione visuale di quanto non lo sarebbe un difetto materiale della vista. In quella personcina giovane, troppo magra, che colpiva anche troppo l'attenzione, l'eccesso di ciò che un altro avrebbe potuto chiamare fascino, era giustamente quello che era fatto per dispiacermi. Ma ciò non di meno aveva avuto come risultato quello di impedirmi di guardare qualsiasi altra cosa. Cioè aveva delle caratteristiche che erano fatte per dispiacere. Ciò non di meno, erano tali queste caratteristiche che lui non aveva potuto guardare nient'altro. Così, dunque non ho messo indietro sono, non aveva potuto guardare nient'altro delle altre piccole commesse, salvo che il naso arcuato di quella, il suo sguardo, cosa così poco gradevole, il suo sguardo pensieroso, così personale, che aveva l'ansia di giudicare, e quello sguardo aveva ricacciato tutte le altre sugli anni periodo, se no diventa impossibile da tradurre, quello sguardo di questa ragazza aveva ricacciato tutte le altre della notte, tutte le altre della notte, al modo di un lampo biondo che rende tenebra il paesaggio circostante. Così, della mia visita per ordinare un formaggio dal lattaio non mi ero ricordato, se si può dire ricordato a proposito di un viso così mal guardato, tanto che uno gli adatta 10 volte e 10 volte e un naso lo adatta 10, che gli adatta 10 volte, lo adatta 10 volte al nulla di un viso, al nulla di un viso un naso differente, l'aveva tanto poco guardato che riesce ad adattarvi 10 nasi diversi. Io non mi ero ricordato che la piccola, di tutto, non mi ero ricordato che la piccola che mi era così spiaciuta, attenzione, che mi era spiaciuta, questo, dice Proust, basta a far nascere un amore. Il fatto che avesse un naso. Questo basta a partire. Nasi, ragazze, nasute di tutto il mondo marcherebbe unite. Altro che operazioni, altro che cose possono, eh? Avevo una allieva che aveva un intelligentissimo. L'idea è quella di stare al centro del mondo e che tutto venga lui. Lui sta nella sua stanza e viene a lui la donna, non è che lui si sposta, come un ragno al centro della ragnatela. Avete presente un ragno e le mosche vengono. La mosca è la donna amata che non esiste con una sua personalità autonoma, è semplicemente l'oggetto del nostro desiderio. Mi pare sempre utile ricordare un film meraviglioso che forse avete visto, che non appartiene certamente ai vostri anni, per vostra fortuna e di me sciagura, ma veramente antecedente, che era un film che si intitolava Cet obscur objet du désir di Buñuel, in cui c'è la protagonista, oggetto di desiderio, che fa ogni volta per concedersi al protagonista, e poi all'ultimo subentra un qualcosa per cui lui, mangiandosi le dita, non può accedere alle di lei grazie e bellezze, e a un certo momento lo spettatore vede che la ragazza, bellissima, la change e in conseguenza è la change, non è più quella, ma non è una che gli assomiglia, è una bruna, però insomma, è diversa. E lo spettatore, dopo un momento di smarrimento, dice: ma che è successo? Hanno cambiato l'attrice. È stato un colpo di genio di Buñuel, no? Cioè, quando a un certo punto uno è fisso nella bellezza che ha assorbito i suoi sensi, i suoi sentimenti, il suo cervello, non vede più. E quindi la persona può cambiare, lo scuro oggetto del desiderio è il sesso femminile, può cambiare, ma lui ha solo quello in mente, solo quello in mente. Ci sono molte persone che si sentono umiliate in un rapporto di coppia perché non viene vista la loro, il vestito nuovo, la loro peculiarità, diciamo così, perché tutto è andato, come dire, pietrificandosi nella dimensione del desiderio. E così abbiamo questo narratore che sta al centro, no? Così come al centro della sua stanza, che Albertine è fuori. Questa è sempre la condizione, Albertine è fuori, lui è dentro. E c'è Elstir, questo paragone, cioè il pittore della recherche, perché sono tre i personaggi della recherche rappresentanti delle arti: uno è lo scrittore del Vercot, l'altro è il pittore dell'Elstir, e il musicista si chiama Valverde. Elstir qualche volta, cosa squisita, è chiuso nel suo atelier di pittore ed è primavera e vuol venire vicino a sé delle violette. È come se avesse è come la voglia che vi dicevo delle donne incinte che sono per la fragola, no? Io a volte vengono delle cupe voglie strane che poi non ci avranno più. Io ricordo perfettamente una signora incinta, per motivi tecnico-logici, l'ho seguito molto da vicino, che era mia moglie, che a un certo momento, tecnico-logistici ambientali, diciamo così, insomma, e a un certo punto lei che aveva odiato il fegato, voleva solo fegato. Quindi prendevi questi pezzacci di fegato e così vengono queste regole, no, misteriose, per esempio di avere un certo gelato, possono venire anche di altro genere, aveva Proust la regola di vedere per esempio come stava, le avevo raccontato questo episodio, l'orecchino all'orecchio di una ragazza, e la ragazza dice: ma scusi, eccolo qua, perché, no, per carità, voglio vedere quel raggio di luce che cade in quel momento, no? Che cade in quel momento. E così possiamo avere queste voglie dolcianti, improvvise, che possono essere di marron glacé, o possono essere di avere quella certa camicetta che abbiamo visto di sera. Che abbiamo visto, che non aggiunge assolutamente nulla al vostro guardaroba, ma che tuttavia rappresenta uno sfizio di irresistibile piacere. Poi magari addosso, magari non mi stai anche bene. Ricordo perfettamente di una volta che una giovane signora mi fece un regalo molti, molti anni fa. Ecco, non era mia moglie, no, ma era una giovane signora. Era un regalo di birthday, ed era una camicia. che non ha limiti a quadretti, un camiciotto estivo molto vezzoso, che effettivamente per la sua vezzosaggine io allora avevo un po' di incertezza totale laddove adesso ho trovato anche colli di pelliccia, qualcosa di equivoco, se vogliamo. Quando ebbi questa camicia tra le mani, la signora era una donna di grande intelligenza, come le signore che mi sono onorato di frequentare nella vita, mi dice che la camicia aveva un'altra taglia, ma non una taglia inferiore, ma una taglia vistosamente inferiore. Cioè, io adesso ho collo di signori, diciamo così, piuttosto robusto, diciamo così, allora comunque la differenza era di due tagli. I quadretti erano bellissimi. Il camiciotto, vi dico, aveva una sua straordinaria vezzosità e al tempo stesso una nuance, se così si può dire, di virilità che sembrava racchiusa nei quadretti, quindi era il meglio in assoluto. Però certo, aveva la taglia, va bene. A cavallo tanto non si guarda in bocca, ma nella fattispecie mi permette di dire, non è per caso possibile cambiare quella del negozio? Era l'ultima di mai. E a questo punto mi adombrai, naturalmente, mi riconsentì e gli dissi, ma scusa, tu sapevi qual è la taglia del mio, la misura del mio colletto? E la signora, che era la giovane signora, giovanissima allora, che era di grande grazia e raffinatezza, mi rispose in questo modo, sì sì, lo sapevo benissimo. E allora, hai comprato una cosa che aveva la mia taglia? Sapevo qual era la tua taglia, ma questa la era così bella che non potevo non comprartela. Questo può testimoniare un'autentica follia, naturalmente, della persona, un'autentica follia. Eppure, l'estetismo, come vedremo fra poco, è proprio fatto di queste cose. Allora, se la camicia è così bella, c'è solo quella misura rimasta, quei quadretti resterebbero perduti per sempre, no? E allora io la compro ugualmente. E se non serve a niente, la risposta implicita è, ma la bellezza non deve servire. In fondo, no, uno potrebbe ragionare, che cosa serve una soprammobile? Che cosa serve un quadro, no? Sì, è un discorso differente, a meno che uno non faccia un oggetto di bellezza e di arte di un camiciotto estivo con dei quadrettini, insomma. Però è anche possibile. E allora, questo è il modo di vivere artificiale di un esteta. Io ho fatto questo esempio che mi sembra abbastanza calzante. Si può comprare una camicia che non si vede la misura, se è una cosa molto bella ed è l'unica che sia rimasta. E allora, se il tiro si trova adesso lì nel suo atelier e non può andare a vedere fuori le violette, se ne fa portare un pochino. E allora sulla tavola le violette non sono più violette. Cioè, anzi, scusate, la tavola non è più una tavola. Le violette ci sono, ma la tavola non è più una tavola. La tavola è diventata il prato. Lui vede come se fosse lì, all'interno del suo atelier, non nel suo atelier, ma in un prato. Sta vedendo questi fiori di primavera. Allora, come Stier faceva una cosa del genere, così lui vuol fare un qualcosa di altro genere, ma molto simile. C'è una ragazza che ha veduto, perché lì muore una persona che venga da lì, muore una persona che venga da lì. Però di lavandaie, siamo di domenica, non è possibile a Parigi, una portatrice di pane lo dice, eccetera, la provvidenza la sarebbe venuta dopo, notate bene la squisitezza, cioè quello che mi importava era avere una ragazzina lì, poi che fosse consulente, perché non me ne importava lui. Rimane una stravaganza bionda. Una ragazzina che sta nel negozio di lattaio, alta, ma con il viso infantile, che sembrava sognare e in un'attitudine abbastanza fiera. Se mettete insieme queste parole, vedrete anzitutto il contrasto che c'è tra alta, quindi come se fosse una persona sviluppata, però con il viso infantile, va bene? Poi mettete insieme che ha un'attitudine a sognare, e quindi potete pensare a un'espressione delicata sul viso, invece ha un'espressione fiera. Quindi è una situazione ossimonica, no? un contrasto, perché è fiera ma al tempo stesso ha un'attitudine a sognare, è alta ma è infantile. Tutto questo giustifica il termine che viene usato, che è quello di stravaganza. Che cos'è lo stravagante? Lo stravagante è quello che esce dal consueto. E qui già siamo a un punto molto importante, ecco, perché di che cosa ci innamoriamo noi della vita? Sicuramente di ciò che esce dall'ordinario. Se noi abbiamo un oggetto di un'attenzione particolare, amorosa, nei confronti di un uomo o di una donna, tutto potremo dire a noi stessi, che sia molto bello, intelligente, ma non che è banale. Del banale non ci si può innamorare. Diremo di più, nel momento in cui tu riconosci che il tuo oggetto d'amore è banale, vuol dire che non sei più innamorato. Noi abbiamo bisogno per innamorarci della stravaganza. Questo vale per un uomo, per una donna, ma non solo. Per un vestito, in fondo. Un vestito banale non può magari lo compriamo, perché abbiamo bisogno per andare a una cerimonia, eccetera, eccetera. Ma non può attrarre la nostra attenzione. E dietro questo passo. Il banale non ci interessa, lo stravagante sì. Dunque, allora, come era questa ragazza? Questa ragazza l'aveva vista di lontano e aveva visto che i capelli erano erano assolti, erano biondi, abbiamo detto, ed erano assolti come nevai, però gli dà un'impressione stilizzata, stilizzata. Stilizzata vuol dire a grandi tracce, a grandi tracce. E in effetti, quando noi vediamo qualcosa di cui poi ci appassioniamo, inizialmente non solo non abbiamo il senso del contesto, com'è la persona nel suo complesso, ma sarei per dire non abbiamo nemmeno il senso preciso dei dettagli. Abbiamo, per così dire, una conoscenza della persona per tracce, come se la persona fosse stilizzata. Ci rimane nella mente qualcosa, cioè non è che noi vediamo una persona e ci interessiamo amorosamente a lei perché questa persona ha dei begli occhi. Notiamo degli occhi, notiamo la voce che ci piace, notiamo cose di questo genere. Ma sostanzialmente agli inizi noi abbiamo un'impressione, ripeto, appunto stilizzata per elementi fondamentali che guidano. Uno di questi elementi, che lo colpisce di quello che stiamo parlando, è un naso, un naso. Ora, un naso ben marcato, che non è cosa comune tra i bambini. Questo è verissimo, no? Cioè i bambini hanno normalmente un naso tondeggiante, ecco. Che dà un'idea di come il becco dei piccoli dell'avvoltoio. Lui avrebbe potuto vedere meglio questa ragazza. Il fatto è che questa ragazza sta insieme ad altre. Se la ragazza non fosse stata insieme ad altre, l'avrei potuto vedere meglio, però quello che veramente impedisce di vederla meglio è un altro elemento, è l'incertezza dei sentimenti. Quali sentimenti? Che lui può ispirare alla ragazza, magari questa si burla di lui con le amiche, magari lo disprezza, no? Magari lo rifiuta, magari lo rifiuta. Allora, il fatto di non sapere quale sentimento può suscitare, lo mette in guardia. Attenzione, questa è un'osservazione finissima. Noi, quando guardiamo qualcuno, non riusciamo spesso a vederlo per quello che è veramente, perché abbiamo paura di essere giudicati. e poi non dica che Proust non era uomo intelligente. L'idea di essere scherniti o di essere disprezzati, di essere rifiutati, fa sì che noi non ci affondiamo, per così dire, dell'immagine che abbiamo davanti, ma ci manteniamo, come dire, alla soglia di questa immagine. Alla soglia di questa immagine. Sono poche le persone che riescono a guardare bene, sono quelle che hanno una tale sicurezza di sé, che allora non gli viene nemmeno in mente che possono essere rifiutate, no? E allora lo sguardo però ha un qualcosa di odiosamente spavaldo, come chi insomma abbia partita vinta. Ho visto recentemente una giovane attrice, ah ecco chi ho visto, forse la conoscete, italiana, che si chiama Giovanna Mezzogiorno, che a me non piace, ma comunque antipatica, però guardavo come guardava, degli occhi assolutamente meravigliosi, guardavano in un modo del tutto certo. I pochi anni di vita che ha vissuto l'hanno abituata al fatto che lei poteva ottenere quel che voleva dagli altri, e quindi guardava. Ci sono persone che sono timide e che hanno gli occhi bassi e che vivono con gli occhi bassi, che non guardano gli altri perché hanno paura di essere giudicati. Allora qui il narratore vive questa condizione in cui non vede bene la battaglia perché ha paura di essere giudicato. Ora voi potreste dire, ma come, ma l'abbiamo detto che quello che importa è soltanto il punto di vista amoroso e non il punto di vista dell'altro. Sì, ma qui non siamo per l'amore, qui siamo semplicemente con una sconosciuta. Quindi la dimensione amorosa non esiste, è lontanissima, ci mancherebbe altro. E allora uno, tenendo di essere giudicato, attenzione ragazzi, non guarda, tiene gli occhi bassi, ripetete questo fatto, non guarda. Bene. Oh, continuo per dire sì. L'altra cosa è che dice Proust, è che l'incertezza morale, ma ripete lo stesso concetto, fa non vedere. Cioè, per guardare bisogna essere certi di sé. Questa è un'osservazione meravigliosa. Per poter guardare davvero bisogna essere certi di sé. Chi non è certo di sé non guarda. Capita spesso che una persona non certa di sé si unisca in un rapporto affettivo con un'altra, però mantenendo un'incertezza di se stessa, l'altra persona non la guarda, e attenzione, si abitua al suo non guardare, per cui passa anni della vita con una persona con cui sta insieme, no? senza averla guardata, tenendone in qualche modo oscuramente il suo giudizio. Bene. Quello che ha visto il narratore di questa ragazza era qualcosa di brutto. Questo naso è brutto, un naso a becco. Vi faccio presente che il naso, nell'ottica classica, deve essere piccolo, il naso delle donne deve essere piccolo. Catullo parla di nasi piccoli, cioè nessun uomo, nessun artista ha mai ritenuto che un nasone sia segno di bellezza, no? Direi che ci sono anche invece degli uomini, ci sono nasi imponenti, Piero della Francesca per esempio, Guido da Montefeltro l'ha dipinto con quel naso, chi la presenta con quel nasone arrosto così, ma no, voglio dire, per quanto sia un uomo e non una donna, è brutto. E poi, voglio dire, per esempio, se avete presente, non Glenda Jackson, quella cantante, quella lì con il naso, Barbara Streisand, che Dio la benedica, ma con un naso del genere è una sfida al fatto. Cioè, una che nasce con un naso del genere è una cosa terribile. Uno guarda, per quanto sia intelligente, eccetera, eccetera, però vedi l'aggressività di questo naso, quindi il naso è fatto per dispiacere. Però intanto dice Proust, quel nato ha fatto sì che lui non guardasse nessuna delle altre battaglie, ma solo quelle. Come nasce la paura? Quando uno guarda solo qualcuno. Dice più avanti Proust, c'è un segno inconfondibile per sapere se al di là dei rapporti sociali, quelli sposato, non sposato, eccetera, eccetera, noi amiamo una persona. È un segno, è l'unico segno che vale. Il segno è, noi amiamo una persona se a quella persona pensiamo sempre. Non ci sono altri segni. Se a quella persona pensiamo sempre. Il fatto quindi che solo questa ragazza fosse venuta in evidenza per la sua bruttezza, questo comincia, questo è il segno che può far nascere l'amore. Può far nascere l'amore. In più si aggiungeva un'altra cosa. La ragazza era furba, sebbene piccola, era tanto furba che aveva seminato debiti nel quartiere e quindi aveva dovuto lasciare il posto di lavoro. Il fatto che fosse furba nell'immaginario del narratore funziona in questo modo. Vuol dire che una che scalza, che sa farci con gli uomini, che sa muovere la vita intorno a sé. E quindi dice, e quindi conclude, se la bellezza è una promessa di felicità, tu vedi una persona bella e pensi che potrai avere della felicità da questa persona bella, vale anche l'opposto. Se tu hai una possibilità di piacere, la persona diventa bella in tuoi occhi. Quindi anche una battaglia col naso orrendo può diventare bella nella misura in cui ti promette nella fattispecie un piacere sessuale. Proviamoci quindi, ci vediamo.